Letture di Radio 24. Il nostro destino è l'esondazione, scrive Ernesto Galli della Loggia nel suo articolo di fondo sul Corriere della Sera dell'11 novembre. In qualunque parte della penisola bastano in pratica 24 ore di pioggia intensa per allagare interi quartieri di città, continua Galli della Loggia. Eppure c'era un tempo in cui le bombe d'acqua si chiamavano pioggia, ironizza Pierluigi Battista nel suo editoriale pubblicato il giorno prima, sempre sul Corriere. Forse, anziché maledire il global warming, commenta Battista, basterebbe che i sindaci e le amministrazioni costruissero argini affidabili e provvedessero alla periodica pulitura dei tombini. Gentili concittadini, terrorizzati dalle bombe d'acqua e sgomenti perché ogni tanto il cielo butta piogge, provocando il freddo d'inverno e gettandoci nel panico perché ogni volta città, villaggi e persone rischiano di annegare. Forse è il caso che ci diciamo cose rassicuranti, sebbene stupefacenti. Tanto tempo fa le bombe d'acqua si chiamavano pioggia. Se la pioggia era battente, si diceva temporale, volgarmente acquazzone. Talvolta si trascendeva in grandinata o, con pericolose vicissitudini termiche, nevicata, destinata purtroppo a diventare insormontabile ghiaccio senza il tempestivo intervento dei cosiddetti spalatori. Colorite espressioni come piove a dirotto o diluvia davano il senso della ferma accettazione popolare di un destino meteorologico momentaneamente avverso. Per non bagnarsi si fabbricavano oggetti come il cosiddetto ombrello e capi d'abbigliamento come giacche a vento, galosce, per i più anziani, impermeabili. Spesso le piogge provocano luminosità improvvise, dette fulmini, seguite da sonorità prepotenti, dette tuoni. Un genio come Benjamin Franklin l'aveva previsto e già nel Settecento aveva inventato il parafulmine. Invece di maledire il global warming per evitare esondazioni di fiumi e torrenti, si possono costruire apposite barriere difensive, dette argini. E se i sindaci e le amministrazioni non ne costruiscono di affidabili, la colpa non è del liberismo selvaggio, ma dell'acclarata incapacità dei suddetti. Nelle città, per favorire l'assorbimento delle bombe d'acqua, un tempo chiamate temporali, si dovrebbe provvedere alla costruzione di apposite infrastrutture chiamate popolarmente tombini. Per evitare allagamenti e disastri, bisognerebbe provvedere, a differenza di quello che capita a Roma, alla periodica ripulitura dei tombini da foglie e altri oggetti che possono ostruire il normale deflusso dei liquidi. Nei litoranei possono accadere fenomeni che urtano la nostra sensibilità, come le mareggiate. In questo caso sarebbe controproducente sostare in prossimità delle acque. Insomma, i pericoli esistono. Sarebbe inutile nasconderlo. Ma invece di allarmarsi oltremodo ogni volta che il servizio meteo annuncia bombe d'acqua, occorrerebbe predisporsi alla riparazione di argini e tombini, senza arrendersi ai terrori sull'emergenza pioggia, cominciando anzi a rimboccarsi fattivamente le maniche dell'impermeabile. Avete ascoltato la lettura dell'editoriale di Pierluigi Battista, Fenomenologia del panico da maltempo, dal Corriere della Sera del 10 novembre. Letture di Radio 24. In Iran, una donna è stata condannata ad un anno di carcere per aver voluto assistere ad una partita maschile di pallavolo. In Cina, migliaia di donne provenienti da Vietnam e Corea del Nord vengono vendute come schiave. Nello Yemen, quasi la metà delle donne si sposa prima della maggiore età e molte sono mogli già a 8 anni. Sono solo alcuni esempi di paesi che odiano le donne, in un articolo di Fausto Biloslavo che traccia la mappa di un medioevo femminile fatto di violenze, stupri e imposizioni arcaiche. La paladina dei più deboli massacrata dagli integralisti islamici in Libia. Le ragazze sfregiate con acido in Iran perché non portano un velo adeguato. Le spose bambine nello Yemen e le mogli schiave che si danno fuoco in Afghanistan perché hanno perso ogni speranza. Sono solo alcuni esempi delle vessazioni di cui sono vittime le donne in molti paesi. Una lunga lista di stati, tra i quali rientra anche l'India, la più grande democrazia del mondo, dove si registra lo stupro di una donna ogni 22 minuti. La Cina, invece, chiude un occhio sulla tratta delle vietnamite vendute come mogli o schiave del sesso. Sono almeno 603 milioni le donne che vivono in un paese nel quale le violenze domestiche non vengono considerate un crimine. L'Iran, la Somalia e il Sudan non hanno firmato la Convenzione dell'ONU per eliminare tutte le discriminazioni nei confronti delle donne. Ma neanche gli avanzati Stati Uniti, d'altro canto, l'hanno ancora ratificata. La discriminazione femminile è ancora più grave quando si mescola a quella religiosa, come nel caso della cristiana Asia Bibi, condannata a morte in Pakistan per blasfemia. Tragicomici i divieti arcaici in vigore in paesi come l'Arabia Saudita, che continua a vietare alle donne la possibilità di guidare l'automobile. Allarmante invece la violenza dei movimenti terroristici come ISIS e Boko Haram, intenti a costruire il califfato dalla Siria all'Iraq fino alla Nigeria, condannando le donne a un eterno medioevo. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Fausto Biloslavo, Paesi che odiano le donne, da Panorama, del 12 novembre. I cancri della storia, Islam, cattolicesimo, comunismo. Scriveva il filosofo veneziano Andrea Emo nel 1962, in uno dei tanti scritti rimasti inediti, alcuni dei quali vengono ora riproposti dalla casa editrice Gallucci nella raccolta Verso la notte e le sue ignote costellazioni. Allievo di Giovanni Gentile, spostatosi successivamente verso il relativismo di Hegel e il nichilismo di Nietzsche, Emo metteva l'individuo al centro della sua dialettica, criticava le correnti di pensiero che privilegiano la collettività e sosteneva che solo attraverso la particolarità dell'individuale si può conquistare la vera universalità. I testi contenuti in questa raccolta, alcuni dei quali sono stati proposti nei giorni scorsi sulle pagine del giornale, mostrano quanto siano ancora attuali le riflessioni di Emo su politica e storia, come rivelano queste righe sulle teorie liberali. Io devo lottare perché il mio vicino possa esprimere, cioè far valere, un'opinione diversa dalla mia. Ma poiché nel caso della lotta politica la diversità di opinioni si riferisce all'essenza delle cose, alle radici, ai fondamenti, io devo lottare perché il mio vicino possa far valere un'opinione radicalmente diversa dalla mia. Cioè, posso far valere l'opinione che egli non ammette che altri possano avere un'opinione diversa dalla sua. Pertanto, se io lotto perché egli possa far valere un'opinione di questo genere, io suicido me e suicido le mie idee, cioè, in questo caso, il mio liberalismo. E allora, per far valere le mie opinioni liberali, devo combattere, cioè abbattere il mio vicino che ha delle opinioni illiberali, cioè opinioni diverse dalla mia. E anche in questo caso io uccido, cioè suicido, il mio liberalismo. Quindi, in ogni modo, il paradosso liberale, se sviluppato, arriva allo scacco matto. Avete ascoltato la lettura di alcuni passaggi dal libro di Andrea Emo, Verso la notte e le sue ignote costellazioni, scritti sulla politica e la storia. Gallucci, 412 pagine, 15 euro. Riproposte su Il Giornale del 30 ottobre. Nella sua prima autobiografia, Thomas Millian racconta non solo i suoi 50 anni di carriera cinematografica, ma anche quello di cui si conosce ben poco: la sua vita privata, l'infanzia a Cuba e il dramma di aver dovuto assistere al suicidio del padre, la fuga negli Stati Uniti e l'arrivo in Italia, la solitudine, i problemi con l'alcol e la droga. E poi c'è il Monnezza, il personaggio che l'ha reso famoso e che lui dichiara di amare più di se stesso. Ciò che mi interessava era diventare, tramite Ermonnezza, membro di un popolo che sdrammatizzava le tragedie con il sorriso, che attraverso il potere della risata esorcizzava i propri demoni. Una volta una giornalista mi domandò il perché delle parolacce. Le dissi che le parolacce erano rivoluzionarie e utili al tempo stesso. Il Monnezza, per esempio, aveva anche una ricetta contro la droga. Arco atto fa sapere che è meglio un vaffanculo che le pere. Lui mi faceva da corazza contro la vita e il dolore. A Cuba avevo avuto un'infanzia segnata dall'assenza d'amore di mia madre e dal colpo di pistola di mio padre. Ma a Roma riuscii a riempire quel vuoto esistenziale con i sentimenti di un personaggio che era diverso da me, migliore di me. Questa simbiosi con Ermonnezza aveva però un risvolto poco piacevole. Non potevo più uscire di casa. Stavo perdendo i capelli, dovevo tingermi la barba, Mangiavo e bevevo come un dannato e mi cresceva la panza. Insomma, invecchiavo e non volevo che i fan mi vedessero come ero nella vita reale, ma solo per come mi conoscevano al cinema. Smisi di uscire di casa. Non rilasciai più interviste perché il mio essere Thomas non interferisse con l'essere Monnezza. L'ho già detto, a me Thomas non piace, mentre Monnezza sì. Thomas è vulnerabile, ingenuo, timido. Monnezza è coraggioso, saggio, estroverso. L'unica cosa che abbiamo in comune è il senso dello humor. Avete ascoltato la lettura di alcune pagine dal libro di Thomas Millian e Manlio Gomarasca, Monnezza, amore mio. Rizzoli, 306 pagine, €18,50. Treni pagati il doppio del prezzo originale. Trenord, la società di trasporti pubblici della Lombardia nata dalla fusione tra le Ferrovie Nord e la divisione regionale di Trenitalia, non si distingue solo per i ritardi e i disservizi, ma anche per lo spreco di denaro pubblico. Il colmo della beffa? I treni pagati a peso d'oro sono spesso guasti. Nella peggiore delle ipotesi, sono treni pagati dai contribuenti ben due volte e al doppio del prezzo. E chissà a chi e a cosa è servito l'eventuale surplus. Nella migliore si può dire che gli allora acquirenti dei mezzi, i pur esperti dirigenti di Ferrovie Nord che utilizzarono un finanziamento concesso dalla Regione Lombardia e dalla provincia di Brescia, non ebbero un gran fiuto per gli affari, perché solo pochi mesi prima i colleghi pugliesi delle Ferrovie Sud-Est li pagarono 2 milioni di euro l'uno, invece di 4. Come se non bastasse, c'è la beffa per gli utilizzatori finali, cioè i pendolari, perché i treni in questione non stanno neanche funzionando bene. La vicenda risale a 5 anni fa ed è collegata a un'inchiesta ancora in corso della Procura di Bari. Ma non è detto che finisca in Puglia, perché adesso Legambiente ha presentato un esposto alla Corte dei Conti di Milano, chiedendo ai magistrati contabili di indagare sull'acquisto sospetto. Per spiegare la vicenda, tocca fare un passo indietro. Nel 2008 le Ferrovie del Sud-Est, azienda del Ministero dei Trasporti che ha in concessione più di 500 chilometri di ferrovie pugliesi, comprano 27 treni nuovi, sborsando 53 milioni di euro da un'azienda molto conosciuta del settore, la Pesa Bydgoszcz. La Varsa, una misteriosa società di intermediazione, interviene facendo attività di consulenza, si legge negli atti. Una mediazione sospetta che viene ricompensata generosamente, con 11 milioni e 369 mila euro, circa il 20% dell'affare complessivo. Calcolatrice alla mano, ognuno degli ATR 220 è costato 1,95 milioni di euro, consulenza inclusa. Bene, e qui arriviamo al punto. Due di quei treni, eccoli sbucare poco dopo in Lombardia. In Lombardia i treni sono costati la bellezza di 8 milioni di euro, cioè 4 l'uno. Restano diversi punti poco chiari nella questione. Da chi ha comprato i treni Ferrovie Nord, società il cui 57% è in mano alla regione? Il bilancio dell'ente del 2009 non lo dice. Le carte in mano agli acquirenti si focalizzano su una commessa di 27 treni della FSE con i mezzi numerati da 001 a 027. Che numeri hanno i due treni finiti sulla linea Brescia-Iseo-Edolo? Lo 024 e lo 025. I convogli, si legge nell'esposto presentato da Dario Balotta, responsabile trasporti di Legambiente Lombardia, potrebbero essere stati pagati due volte. La prima con le risorse messe a disposizione dal Ministero dei Trasporti per le Ferrovie del Sud-Est e la seconda volta con le risorse pubbliche della provincia di Brescia e di Regione Lombardia. C'è inoltre da chiedersi come è possibile che i due treni siano costati agli enti pubblici lombardi più del doppio di quanto sono stati pagati dalle Ferrovie del Sud-Est. L'acquisto, oltretutto, non passò da un bando pubblico, ma si procedette d'urgenza, bypassando le normali gare. Un vero e proprio miracolo, disse allora il direttore generale della società, Giuseppe Biesuz, riferendosi alla rapidità dell'acquisto. Oggi Ferrovie Nord parla di un acquisto trattato direttamente coi polacchi della Pesa, senza quindi passare dalla Puglia, e a un normale prezzo di mercato. Sia come sia, c'è la sorpresa finale. Perché dall'aprile 2009 ad oggi i due treni hanno manifestato numerosi guasti meccanici ed elettromeccanici, sottolinea Balotta, e sono stati per molto tempo fuori servizio in officina per riparazioni varie, oltre che per la normale manutenzione. Uno dei due ATR è attualmente fermo con i motori guasti. Non a caso, in assenza delle vetture polacche, sui binari sono tornati i vecchi diesel degli anni 70. Avete ascoltato la lettura di alcuni passaggi dell'articolo di Giuliano Foschini e Matteo Pucciarelli, Quei treni comprati dalle Nord al doppio del loro prezzo, dalla Repubblica dell'11 novembre.